A bordo campo di Dario Ricci. Eh sì, lo avete sentito, oggi a bordo campo parliamo di Africa, Sudafrica, di una manifestazione veramente particolare che dall'Africa è partita e che è arrivata a Milano quest'anno, nell'anno in cui per la prima volta la Coppa del Mondo di Calcio verrà ospitata proprio in Sudafrica. Insomma, un circolo un po' che si chiude qui a Milano, dove si è appena conclusa la Homeless World Cup, la Coppa del Mondo di calcio degli homeless, dei senza casa, dei senza dimora. E allora, proprio di questa manifestazione vogliamo parlare con due ospiti d'eccezione. L'uomo che ha inventato la Homeless World Cup, Mel Young. Benvenuto Mel Young a Radio 24. Good morning, Mel. Good morning. Vicino a Mel Young, il nostro ospite Alessandro Dell'Orto, presidente di Milano Myland, l'associazione che ha aiutato Mel ad organizzare la tappa, l'edizione italiana della Homeless World Cup. Buongiorno presidente Dell'Orto. Sì, buongiorno a tutti voi. Chiediamo proprio a Mel Young come è nata questa manifestazione, come è nata l'idea di questa Homeless World Cup. Well, we had this idea in... Abbiamo avuto questa idea a Città del Capo nel 2001, io e un mio collega, Harold Schmidt. Eravamo entrambi già impegnati nell'aiutare i senza fissa dimora. Stavamo proprio partecipando a una conferenza sul tema. Relazioni interessanti, grandi discorsi. Ma dopo la conferenza ci siamo seduti a prendere una birra in un pub e ci siamo detti: tutto bello, ma non c'era nessun homeless alla conferenza. E allora ci siamo posti il problema: come far sì che le stesse persone senza fissa dimora potessero divenire partecipi dei temi di cui avevamo parlato in quei dibattiti? Lavoro, assistenza, permessi di soggiorno. Ci serviva un linguaggio comune. Ci è bastato un istante per pensare che questo linguaggio poteva essere il calcio. Siamo due grandi appassionati di calcio e da lì è partito tutto. Abbiamo organizzato una prima partita fra una rappresentativa della Scozia e dell'Austria. La Homeless World Cup sarebbe nata appena 18 mesi dopo, con la prima edizione a Graz, in Austria. Then we had the first event 18 months later in Graz in Austria in 2003. Perché proprio il calcio? First of all, it is an international language, so perché è un linguaggio comune e universale, comprensibile anche in quei paesi dove non è molto praticato. È un linguaggio internazionale. E poi è lo sport dei poveri in tutto il mondo. È facile coinvolgere le persone e farle giocare. Basta far rotolare un pallone e puoi giocare ovunque, in una strada, un parco, in qualsiasi numero di giocatori e di qualsiasi età. E l'importante non è essere bravi o meno bravi, è giocare insieme, mescolarsi insieme. E non è costoso, è molto semplice. Far parte di una squadra vuol dire entrare a far parte di una famiglia, cominciare ad essere responsabilizzati. Per tutte queste ragioni abbiamo scelto il calcio. Chi può partecipare a questa manifestazione? It's very simple. If you're homeless, you can take part. If you're not homeless, you can't take part. È facile. Se sei una persona senza fissa dimora, puoi giocare. Altrimenti, no. Sfortunatamente abbiamo parecchi potenziali giocatori nel mondo. Sono oltre un miliardo le persone senza fissa dimora. Anche le Nazioni Unite spesso lo dimenticano. La situazione sta peggiorando sia nei paesi più ricchi che in quelli più poveri. Negli Stati Uniti a milioni vivono per strada. Insomma, non abbiamo problemi nel trovare gente per le nostre squadre. Anche a Milano abbiamo visto ottime squadre e giocatori e molti che non sapevano giocare. Ma l'importante era l'evento in sé e che tutti si siano divertiti. Qual è la sua emozione a pensare che quest'anno in Sudafrica, da dove questa coppa è partita, arriverà la Coppa del Mondo del calcio dei professionisti? Mi sembra una grande idea. Anzi, noi abbiamo avuto l'idea della Homeless World Cup a Città del Capo prima che la FIFA assegnasse i mondiali al Sudafrica. Sono completamente d'accordo con questa decisione, importante per tutta l'Africa, e la gente sudafricana è orgogliosa ed entusiasta di poter ospitare la Coppa. So che la FIFA sta sviluppando il progetto Il Calcio per la Speranza, che sostiene diversi progetti di solidarietà non solo in Sudafrica, ma in tutto il continente, collegati ai campionati del mondo 2010. Credo fortemente che sarà il momento buono per attirare l'interesse di federazioni, grandi aziende, sponsor, sulla situazione africana. E credo che molti vorranno poi essere coinvolti in questi progetti. Lo abbiamo visto a Milano, dove a vedere le nostre partite sono venuti campioni come Lewis Hamilton e Marco Materazzi. Hanno passato tempo con i ragazzi, si sono interessati alla Coppa. Questo è molto importante. Lewis Hamilton came, Materazzi came, they spend the time, they care. This is very important. Alessandro Dell'Orto, c'è stata anche una nazionale italiana che non ha vinto la Coppa come speravamo, ma che ha lasciato il segno, in particolare coinvolgendo anche dei rappresentanti del comune di L'Aquila, che sappiamo essere stato colpito nei mesi scorsi dal tragico sisma. Ebbene, ci sono stati anche tre giocatori della nazionale homeless italiana che hanno voluto testimoniare quanto l'Italia sia vicino all'Aquila e quanto importante fosse prendere parte a questo tipo di iniziative. Ne abbiamo intervistato uno, Roberto Di Stefano, sentiamo la sua testimonianza. Per noi aquilani è un momento importante perché siamo dei senza tetto, però per nostra fortuna siamo dei senza tetto, speriamo momentanei, non so fino a quanto tempo, però momentanei, però siamo venuti a conoscenza di quest'altra realtà, di questo mondo molto ben più grande che quello dei senza tetto di tutto il mondo, ed è un'esperienza veramente, veramente forte. Noi come aquilani portiamo la nostra testimonianza, cercheremo, come è lo spirito della Coppa, quello di non far spegnere i riflettori su delle persone che sono spesso in ombra all'interno delle città, così sarebbe bene che non si spegnessero troppo presto i riflettori sul tragico evento che ci ha colpito a noi il 6 aprile. Ecco, Presidente Dell'Orto, occasione importante la Homeless World Cup anche per collegare in qualche modo tante storie al dramma di L'Aquila. Da questo punto di vista, qual è stata la risposta dei media e quale pensa possano essere le conseguenze positive di questa esperienza? Da questa esperienza possiamo trarre sicuramente una cosa che è inequivocabile, che il calcio, cioè il gioco del calcio, è veramente lo sport più bello del mondo. E noi all'Homeless World Cup coniughiamo lo spirito sportivo, lo spirito agonistico, con l'impegno sociale. L'impegno sociale però in questo caso dato in mano agli homeless, quindi ai veri protagonisti che sono del nostro torneo. L'Homeless World Cup, a differenza di altri eventi, mette riflettori sul problema dell'homelessness, quindi dei vari disagi sociali, delle varie persone che sono emarginate e che non hanno possibilità. Noi gli diamo l'occasione di vestire una maglia, di cantare l'inno, gli diamo l'occasione di vivere il sogno che ogni calciatore ha nel cuore. Come diceva Mel prima, il linguaggio del calcio è veramente molto semplice e il sogno poi di tutti i giocatori di calcio è quello di fare quello che fanno i nostri atleti in questi giorni, quindi vestire la maglia, cantare l'inno, cercare di vincere una coppa, che effettivamente è qualcosa che in qualche nazione manca, ma potrebbe mancare per tantissimo tempo, per i diversi fattori che invece sono all'interno del calcio professionistico. Invece l'Homeless World Cup è proprio una festa. Tante storie, tante etnie coinvolte in questa Homeless World Cup e anche nella squadra italiana. Sentiamo la testimonianza di Angelo, portiere di riserva della nostra squadra, ma che insomma, se in campo non è riuscito a raggiungere il risultato che voleva, sembra che stia però vincendo partite ben più importanti. Sentiamo Angelo. Se col calcio ricominci a scoprire i veri valori della vita, allora vuol dire che è stata già una vittoria essere qua. Poi se vinciamo o non vinciamo la Coppa del Mondo, io penso che per tutti abbiamo già vinto, perché c'è stata vari stati, cioè è stato qualcosa di eccezionale. Io penso che i veri campionati del mondo sono questi, cioè non sono dei calciatori pagati fior di milioni. Noi siamo la nostra semplicità, la nostra, chi purtroppo la povertà, però viviamo tutti insieme, tifiamo uno per qualsiasi squadra, siamo disponibili. C'è un fair play veramente bellissimo e poi lo stare insieme con 48 nazioni non è da tutti i giorni. Eccola quindi la testimonianza di Angelo, ma una delle mille storie che si possono raccontare a partire dai campi di street soccer su cui si gioca la Homeless World Cup, pallone che non esce mai, quindi si corre continuamente, porte un po' più piccole, 4 contro 4, compresi i due portieri, uno per squadra, insomma ritmi velocissimo, ma c'è anche un'eredità, c'è anche un qualcosa che va oltre e che rimane di questa esperienza. Chiediamo proprio a Mel Young qual è l'eredità di questa coppa, cosa lascia questa coppa e qual è concretamente il progetto che da questa coppa nasce. Yes, I mean we're very keen that every country takes on a legacy project, particularly one where the event has been, so we'd be looking at that for Italy. Sono sempre molto determinato affinché i paesi che hanno ospitato la manifestazione sviluppino il cosiddetto progetto eredità. Quindi spero che anche l'Italia lo faccia. L'anno scorso eravamo a Melbourne, in Australia, e l'eredità della Homeless World Cup è stato che il governo ha investito in un programma di sviluppo del calcio di strada, non solo a Melbourne, ma in tutta l'Australia. È stato un passo molto significativo. Tutti devono capire che gli homeless rappresentano anche un costo sociale che può essere abbattuto migliorandone la situazione di vita. Per questo mi aspetto molto dall'Italia e dal fatto che un progetto di street soccer possa essere sviluppato anche a Milano. In fondo, siete un paese che ama il calcio. Non siete forse voi i campioni del mondo? Quindi diamo il via a una bella lega del calcio di strada per aiutare gli homeless italiani. Create a street soccer league, street soccer cup, and help end homelessness in the country. E allora, con questo augurio di Mel Young, che il football possa avvicinare anche tutti noi italiani a delle realtà più complesse, visto che insomma abbiamo anche il ruolo e l'onere e l'onore di essere campioni del mondo, almeno fino a Sudafrica 2010, speriamo anche dopo, beh, allora ci salutiamo ringraziando Alessandro Dell'Orto e Mel Young per essere state in nostra compagnia e in vista, salutando la Homeless World Cup e in vista di Sudafrica 2010, allora salutiamoci proprio facendo risentire la squadra sudafricana di street soccer che intona il suo canto augurale. A bordo campo. Eh sì, pioggia di scudetti, oggi a bordo campo, vai con la musica. Quattro scudetti negli ultimi 5 anni per i Thunder Five. Parliamo di baseball oggi a bordo campo perché insomma si stanno giocando i campionati del mondo qua in Italia e allora diamo spazio allo sport americano per eccellenza. Benvenuto in studio a Francesco Cusati. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Dario. Presidente del gruppo sportivo Non Vedenti Milano e giocatore dei Thunder Five, vincitori di 4 degli ultimi 5 scudetti nel campionato di baseball Non Vedenti. Niente male come palmarès, no? Niente male, considerato che è una squadra relativamente giovane, nata nel 2000, il campionato si svolge oramai dal 1996. Il Milan Thunder Five ha militato sempre appunto in questo campionato e da partire dal 2005, 2005-2006, poi c'è stato il 2007, il campionato è stato vinto dalla Quinta e gli ultimi 2 anni abbiamo portato a casa questo splendido risultato. Nel frattempo è nata anche un'altra squadra, i Lampi, i cugini Lampi, che si stanno sempre ben comportando in questo campionato che attualmente conta 7 squadre perché proprio di recente si è aggiunta la Roma BXC. Beh, campionato insomma ricco di spunti interessanti, i vostri successi sono merito anche dell'allenatore Lorenzo Vinassa, giocatore storico del nostro baseball e che è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie della presentazione, ma i ragazzi sono loro che sono bravi, non solo io, tra l'altro assieme a me lavorano un sacco di altri ex nazionali, ex giocatori, sono i ragazzi che sono bravi, basta solo guidarli e portarli in campo. Eh sì, perché insomma rimane difficile pensare a chi il baseball e il baseball per i non vedenti lo conosce poco che si possa anche praticare uno sport con tante difficoltà pratiche, no? In questo senso, la mazza, la necessità di correre e poi lo strumento per eccellenza, quella pallina che si punta sempre a mandare fuori dal campo, uno strumento adattato per le esigenze dei non vedenti e che fa su per giù questo rumore. Sentiamo. Eccolo qua, Francesco, questo rumore della pallina che vi lanciate sul campo, che riuscite spesso, visto i risultati, a scagliare a colpi di mazza fuori dal campo. Quali sono gli adattamenti che per i non vedenti vengono fatti nel gioco del baseball? Gli adattamenti, allora, prima di tutto il campo, il diamante è lo stesso, è un diamante regolare che viene utilizzato nelle partite, diciamo, del baseball classico. Abbiamo una pallina sonora, quella che avete ascoltato, che appunto rimbalzando produce un rumore, quindi in difesa i giocatori possono recuperare la pallina nel momento in cui la pallina viaggia. Quando si ferma anche il gioco. La caratteristica principale è che non abbiamo un diciamo lanciatore classico pitcher, è lo stesso battitore che deve colpire la pallina, diciamo facendola cadere a mo' di fungo, colpirla al volo. Questo è un movimento molto particolare e di coordinazione, che però appunto porta il battitore a battere, a mettere la pallina in campo, nel mentre appunto che i giocatori in difesa recuperano la pallina, il giocatore corre, deve conquistare direttamente la seconda base. In prima base c'è una base sonora, una sorta di clacson continuo, e il giocatore deve aggirarla e arrivare direttamente in seconda per dare il tempo alla difesa di difendere appunto la pallina. In seconda e in terza base, ci sono due suggeritori che battono delle palette, due suggeritori vedenti. E gli fanno un rumore su per giù così, insomma, sì, come fosse quasi un applauso. Esatto. Per... Esatto. E nel momento in cui ci si sta avvicinando alla base, il rumore, diciamo l'intensità aumenta in modo tale da frenare e toccare la base, perché comunque dobbiamo toccare la base. Quindi insomma potrei ricoprire questo ruolo, va assolutamente bene, sì. Beh, adattamenti che funzionano, perché direi che poi il gioco, vedendo un po' di filmati e qualche allenamento, è davvero spettacolare. E ci sono poi tra l'altro degli amici particolari, no, che supportano l'attività dei Thunder Five e condividono la passione per il baseball. Intanto un piccolo suggerimento, poi parliamo con l'ospite che sta già al telefono con noi, ma sentite un po' questa musica. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo. La voce inconfondibile è quella di Elio, il basso altrettanto inconfondibile è quello di Nicola Faso Fasani. Per tutti Faso, benvenuto Nicola a bordo campo. Grazie, come state? A parte che la voce inconfondibile era quella di Gianni Morandi. E quindi poi era un po' confondibile, diciamo. Sì, infatti, ho pensato che qualcuno a casa potesse dire c'è Gianni Morandi che gioca a baseball. No, fatto gli scherzi, siamo io e quel matto di Elio che anni fa ci siamo appassionati, ormai 20 anni fa, perché abbiamo fondato la nostra squadra 20 anni or sono, ci siamo appassionati al meraviglioso gioco del baseball, come amiamo chiamarlo ultimamente. Ma senti, ma com'è scoccato questo amore? Andavamo a giocare perché uno aveva un guantone, l'altro aveva una mazza e avevamo sentito parlare del baseball, tanto per dirvi. E ci trovavamo in un parco milanese, ma di quelli dove praticamente c'era una situazione del terreno non proprio ideale, perché oltre ad avere delle buchette gnoccoline c'erano anche un po' di siringhe, insomma un po', era un periodo un po' tossico dei parchi milanesi, no? E in quegli anni, era l'86-87, scoprimmo che all'interno del centro Saini di Milano c'era un campo da baseball semi-abbandonato, cioè con una manutenzione veramente oscena, l'erba che cresceva sulla Terra Rossa, così, e andammo a chiedere se potevamo affittarlo. La risposta fu fantastica: no, non si può. Ma perché? Non ci gioca nessuno. È perché vi deve dare il benestare alla federazione. Ma perché ci deve dare il benestare alla federazione? Perché possono andare solo degli atleti tesserati. E allora io, che sono uno un po' polemico, sono andato a costituire la società, ma principalmente per provare la gioia di entrare su un campo da baseball vero. Poi di lì ci siamo appassionati, abbiamo cominciato a gasarci, all'inizio praticamente i dirigenti e i giocatori e il pubblico erano le stesse persone sostanzialmente. Sì, no, veramente, fa un po' ridere pensare che dopo tanti anni siamo riusciti insieme al Milano 46 a costituire un gruppetto che è stato anche in A2, in Serie A2 due anni, e poi ci siamo autoretrocessi perché non c'erano i soldi, o come si dice a Milano, i danè, che fa molto ridere perché la cifra che può, non so, che può servire per fare, allora servire per fare un campionato da due, credo che sia il rimborso benzina di un calciatore. Ah beh, questo dire, no? Capita spesso. Senti, invece l'amicizia con i Thunder Five com'è nata? Beh, è nata in una maniera fantastica, Francesco ricorderà, perché io ricevetti una telefonata e penso che sei stato proprio tu, Francesco. Sì, sì, sì, ti contattai io. Sì. E se ti ricordi, io ho passato i primi 30 secondi, un minuto a dire: ma cosa mi stai dicendo? Perché ovviamente io non sapevo niente, mi chiama uno e dice: sai, siamo una squadra di baseball non vedenti, ma come si fa a giocare a baseball vedendo la palla? Io pensavo, no? Sì. E credevo che fosse uno scherzo. E invece ho scoperto questa meravigliosa realtà pazzesca, cioè, anzi tra l'altro lo voglio dire ufficialmente, i Thunder Five ci hanno sfidato a giocare bendati, ma noi ce la facciamo sotto. Ah, ecco perché non hai ancora accettato la sfida. No, perché io ne ho parlato con tutti e tutti i giocatori strabuzzano gli occhi, ma come? Cioè si gioca che non si vede niente? Eh sì, sono andati tutti in paranoia. Anche perché ritrovarsi in campo contro i campioni d'Italia non è certo una bella prospettiva. Senti Faso, ti lasciamo alla tua musica, però con una promessa, perché ho scoperto che nel repertorio di Elio e le Storie Tese c'è un vuoto che va prima o poi assolutamente colmato. So dove vuoi arrivare, hai ragione. Non c'è una canzone che parla di baseball, è pazzesco. È vero, la dobbiamo comporre. Anzi, guarda, mi riprometto, prometto in diretta su questi radioschermi. Ti piace questa cosa? Bella, bella. Su questi radioschermi prometto che genereremo al più presto una canzone per il meraviglioso gioco del baseball, perché va chiamato così. Bene, e diventerà sicuramente il meraviglioso inno dei Thunder Five. Grazie Faso, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie, ciao, saluti Faso, ciao ciao. Con la promessa di avere presto un nuovo inno fiammante, nuovo di zecca, a firma Elio e le Storie Tese e del nostro amico Faso, c'è anche, coach, la necessità di avere un campo di gioco stabile, no? Qui a Milano. Decisamente, decisamente. Noi siamo ospiti di Faso e della sua squadra su Saini, come avete capito, un campo molto comodo e ospitale, purtroppo per i ragazzi difficile perché molto rumoroso. Avete sentito il suono della pallina, più è silenzioso l'ambiente, meglio si riesce a seguire la partita. Il campo su cui puntiamo sarebbe il Via Valvasori Peroni, il famoso Crespi che è attaccato al terrapieno della ferrovia. Lo stiamo puntando da anni perché stiamo facendo la corte al Comune di Milano perché ci dia lo spazio, che era già in passato, era utilizzato dal baseball ragazzi e dal rugby ragazzi. È lì incolto da circa una decina d'anni. C'è questa promessa mai mantenuta di praticamente di darcelo. Sto cercando con Francesco di trovare una soluzione per andare a battere ancora la Comune di Milano per avere questo campo. Insomma, campo per campioni, certo, sì, d'Italia di baseball circasi. E l'augurio per Francesco Cusati, giocatore dei Thunder Five, campioni d'Italia di baseball non vedenti, e per il coach Vinassa De Rigny è proprio quello di trovare al più presto questo campo e di ottenere poi tanti altri successi proprio sul diamante. Grazie, ciao. Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.